Mantova 1052. Non è stato un incidente, Isabella. Mi vergogno di dire che sono parente di quell'essere spregevole che porta la corona tedesca, inveì Beatrice mentre camminava adirata su e giù per la stanza. La morte sospetta di Bonifacio, avvenuta il 6 maggio 1052, aveva causato grande costernazione in Toscana. Molti avevano vociferato che dietro l'accaduto ci fosse la mano dell'imperatore tedesco Enrico III. L'incidente di caccia, tra virgolette, sembrava più l'assassinio commesso da un avido monarca che da molti anni era divorato dall'invidia per il grande Bonifacio. Tuttavia, anche se l'ostacolo, tra virgolette, Bonifacio era stato tolto di mezzo, Enrico, che era cugino di Beatrice, forse non aveva architettato il suo piano con la dovuta attenzione. Ma ho la mia soddisfazione, anche il pontefice è un mio parente e si è messo all'opera per proteggere me e Matilde. Enrico non oserà confiscare il patrimonio di Bonifacio adesso perché il rischio di ripercussioni è troppo alto. I vassalli toscani si solleverebbero contro di lui. E poi Beatrice abbassò la voce per essere sicura che nessuno, oltre Isabella, la sentisse. Abbiamo escogitato un piano infallibile. Prego che sia così, mia signora. Isabella era segretamente terrorizzata per Matilde e doveva fidarsi del fatto che Beatrice avrebbe fatto la cosa giusta per proteggerla. Beatrice continuò. Un sorriso compiaciuto le corrugò le labbra mentre illustrava la sua strategia. Papa Leone ha predisposto che mi fidanzi subito con Goffredo di Lorena. Isabella restò senza fiato. Non se lo aspettava. L'idea era discutibile per molteplici motivi, non ultimo l'odio conclamato che Goffredo nutriva per l'imperatore. Si era ribellato pubblicamente al sovrano corrotto, perciò era quanto mai oltraggioso per Enrico che il pontefice donasse a Goffredo di Lorena le proprietà di Bonifacio con il pretesto di proteggere Beatrice e la figlia. Ma c'era una questione più spinosa da affrontare. Ma mia signora, Goffredo di Lorena è vostro cugino di primo grado. È una violazione del diritto ecclesiastico. Beatrice ci aveva già pensato. Si stava dimostrando molto più scaltra di quanto Isabella credesse. Abbiamo deciso di comune accordo di fare voto di castità prima di contrarre il matrimonio. A me sta bene, poiché mai più un uomo mi toccherà, ora che Bonifacio è morto. Si addolcì per un istante. Tu dovresti capirlo meglio di tutti, Isabella. Isabella lo capiva, perché anche se Beatrice non metteva in pratica le sacre leggi dello Hieros Gamos, come facevano loro all'interno dell'ordine, le conosceva bene. Bonifacio era stato il suo amato nel senso più sacro del termine e lei lo avrebbe pianto per il resto della sua vita. È una mera questione di convenienza. Ecco che aveva indossato di nuovo la maschera da nobildonna scaltra. Matilde ha bisogno di un protettore potente che difenda i suoi territori. Essendo donna non può ereditarli direttamente, ma io ti ho fatto venire qui per dirti un'altra cosa, Isabella. Per assicurare protezione a mia figlia, il Papa ha deciso che Matilde dovrà fidanzarsi con il figlio di Goffredo, il futuro duca di Lorena. E io ho acconsentito. Isabella sapeva di non poter fare nulla per cambiare quella decisione. Ma si sentì mancare e fu costretta a trattenere le lacrime. Costringere una figlia ad accettare un matrimonio combinato era blasfemo, secondo gli insegnamenti dell'ordine, per cui il potere del vero amore era il sacramento più alto. Beatrice non si rendeva conto che aveva appena condannato la sua straordinaria, prodigiosa bambina a una vita di infelicità. Ma quando Beatrice aveva dato la notizia a Isabella, era ormai tutto organizzato. La contessina di Canossa era stata promessa al giovane, che era già conosciuto con l'infausto epiteto di Goffredo il Gobbo. Quando Papa Leone IX morì all'improvviso, nella primavera del 1054, le sorti di Matilde e di sua madre cambiarono di nuovo, stavolta con gravi ripercussioni. Enrico III rivendicò subito i suoi, tra virgolette, vasti feudi in Italia. Il nuovo marito di Beatrice, il duca Goffredo, la abbandonò per andare a difendere i propri possedimenti in Lorena, che nel frattempo erano minacciati per colpa di un'astuta mossa strategica di Enrico. Rimaste senza alcun tipo di protezione, lei e sua figlia furono imprigionate dal re tedesco che si era incoronato sacro romano imperatore. Enrico III mise Beatrice e Matilde sotto stretta sorveglianza. Matilde non era più un erede. Con una bolla imperiale aveva perso tutto ciò che la famiglia di suo padre aveva costruito in più di 4 generazioni. L'imperatore annunciò che Beatrice e Matilde sarebbero vissute della sua carità e sotto il suo potere alla corte tedesca di Botsfeld, finché lui non avesse stabilito diversamente. Divennero prigioniere, detenute da un sovrano avido e narcisista che da quella situazione traeva solo vantaggi. Sebbene Matilde avesse solo 9 anni, l'ingiustizia di quell'opprimente tirannia non le sfuggiva. Era troppo. Non solo aveva perso il suo adorato padre, la sua eredità e la sua casa, ma era anche esiliata da quanto di più simile all'amore materno avesse mai conosciuto. Isabella non poté più avere contatti con la sua protetta dopo che questa venne rapita. Così tornò a Lucca a pregare che la sua amata bambina fosse liberata, sana e salva. Botsfeld, Germania, 1054. Matilde si svegliò di soprassalto, socchiuse gli occhi alle prime luci di quell'alba grigia. La Germania era fredda e buia alla fine di ottobre. Non c'erano il sole dorato e il calore della Toscana ad alleviare le sofferenze di quella segregazione che durava da 1 anno e mezzo. Odiava la Germania e odiava l'uomo che l'aveva portata lì, odiava il fatto che avesse ucciso suo padre, le avesse rubato l'eredità, odiava il fatto che avesse umiliato sua madre e l'avesse ridotta a una mendicante. Soprattutto detestava suo figlio, quel piccolo demone di 6 anni che era il suo cuginetto e il futuro erede al trono tedesco. Non riusciva a capacitarsi di come un solo ragazzino riuscisse a provocare tanto timore e tanta infelicità. Eppure quell'infans terribilis, anche lui di nome Enrico, era capace di tutto e la faceva sempre franca. La sua austera e bigotta madre francese lo idolatrava. Quando Matilde alzò la testa, ricordò quanto potesse essere perfido il cugino più giovane. Sentì qualcosa di appiccicoso dietro la nuca. Un'altra volta! Si portò le mani ai capelli e si rese conto che i suoi splendidi riccioli ramati erano imbrattati di una sostanza densa e gommosa. Avvicinò le dita al viso per annusare ciò che le era stato versato sui capelli. Miele, mischiato a qualcos'altro, una sorta di pece nera e oleosa che avrebbe senza dubbio indurito e rovinato i suoi boccoli. Mamma! L'unica cosa positiva che era derivata dalla prigionia era la forzata vicinanza con sua madre. Ormai ciascuna delle due era tutto per l'altra. Matilde si era resa conto che la madre era molto più forte di quanto sembrasse e che la remissività di Beatrice nei confronti di suo padre era stata una scelta e una forma di rispetto più che una debolezza. Durante tutta la prigionia, Beatrice discusse con la figlia delle possibilità politiche che si presentavano, facendole capire che aveva ancora alleati in tutta Europa. Malgrado le avesse apparentemente abbandonate, Goffredo di Lorena era un uomo forte, intelligente e sapeva che se Beatrice e Matilde fossero state liberate, lui si sarebbe impadronito nuovamente dei suoi possedimenti nell'Italia settentrionale. Poteva contare su alcune spie nel castello e aveva mandato clandestinamente alcuni messaggi di incoraggiamento a Beatrice. Stava cercando di elaborare un piano per liberarle. Erano a terra, ma non erano state sconfitte. A sua volta, Beatrice aveva compreso quanto fosse dotata sua figlia e questo aveva accresciuto le sue speranze per il futuro. Matilde era in tutto e per tutto l'erede legittima dei territori di Bonifacio. Forse il periodo di segregazione le aveva persino fatto bene, dandole la tempra di una guerriera e una dura ma necessaria lezione di politica. Nel sentir gridare la figlia, Beatrice arrivò di corsa dalla stanza accanto dove era intenta a ricamare. Quel mostro di Enrico mi ha versato di nuovo del miele sui capelli. Io non gli ho mai fatto niente, protestò Matilde. Perché mi odia tanto? Perché è geloso di te e perché è il frutto di un padre malvagio e di una madre ottusa, rispose Beatrice in tono aspro. Che Dio aiuti la Germania se e quando dovesse diventare re. Sin dal giorno in cui erano arrivate in Germania, l'erede al trono, il giovane e prepotente Enrico, terrorizzava Matilde con fervore implacabile. Passava le sue giornate ad architettare modi per renderla infelice e le notti a mettere in pratica le sue trame. Gran parte delle sue attività comprendevano il rovinarle i capelli, per cui aveva una particolare ossessione. A volte la inseguiva con un arco e una freccia a giocattolo e la scherniva gridando: «Guarda, sono Bonifacio, il duca morto di Toscana!» Poi fingeva di essere colpito alla gola e cadeva a terra, contorcendosi in modo teatrale, come in preda all'agonia. Matilde, che era stata cresciuta nella fede del potere dell'amore, cercava di superare la rabbia, recitando il Paternoster ogni sera prima di andare a dormire, come le aveva insegnato il maestro. La lezione del quinto petalo perdona i nostri errori e i nostri debiti come noi perdoniamo gli altri, si rivelava sempre la parte più difficile per lei. Enrico il Terribile le dava mille occasioni per ripassare quella lezione. Beatrice lavò via la sostanza appiccicosa dai capelli di Matilde, strofinandoli ciocca ciocca. Quando il disastro fu risolto, convocò il suo confessore, frate Gilbert, al quale era stato concesso di accompagnarle in esilio, poiché era visto come un fedele suddito tedesco. Richiese che fossero consegnati a Matilde gli scritti di Sant'Agostino perché li leggesse, se non altro si sarebbe assicurata che l'istruzione della figlia proseguisse. Voleva che avesse ogni vantaggio possibile nella politica quando quell'incubo fosse terminato, cosa che secondo Beatrice prima o poi sarebbe accaduta senz'altro. Matilde si sedette a studiare davanti alla sua statuina di Santa Modesta, quella regalatale dalla famiglia di Isabella per festeggiare la sua nascita. Modesta era riconosciuta come santa all'interno dell'ordine e dagli abitanti di La Beauce in Francia perché aveva dedicato coraggiosamente la propria vita agli insegnamenti del libro dell'amore. La statuina era l'unica cosa che a Matilde era stato consentito di portare con sé dalla Toscana e spesso era la sua unica consolazione. Quella sera Matilde e Beatrice furono lasciate a cenare da sole in un'angusta e spoglia anticamera del palazzo particolarmente fredda. C'era qualcosa nell'aria, ma non sapevano ancora di che cosa si trattasse. La famiglia non si era vista per tutto il giorno ed Enrico non era venuto a vantarsi del suo tentativo di rovinare i capelli di Matilde. Questo era molto strano, perché il piccolo Manigoldo non desiderava altro che ricevere attenzione per le sue malefatte. La mattina seguente giunse una notizia che fece riprovare la felicità a Matilde per la prima volta dopo 18 mesi. L'imperatore tedesco, o meglio il ladro assassino, era morto di febbre durante la notte in modo del tutto inaspettato. Le sorti della sua famiglia erano assai incerte perché la Germania e i territori circostanti erano piombati subito nel caos. La regina Agnese non ebbe il tempo di piangere suo marito perché era necessario agire immediatamente. Fu dichiarata reggente e unica tutrice del figlio che da allora in avanti sarebbe stato conosciuto come Enrico IV. Matilde e Beatrice rimasero per diversi giorni in una sorta di limbo, senza ricevere alcuna notizia e senza vedere nemmeno l'ombra di Agnese o di suo figlio. Il quarto giorno, Goffredo di Lorena, che durante la lunga prigionia di Beatrice e Matilde aveva tramato tanto perché si presentasse un'occasione simile, si fece annunciare alle porte di Botsfeld e propose un accordo alla regina reggente. Lui e i più ricchi suoi vassalli di Lorena avrebbero giurato fedeltà a lei e a suo figlio, unificando così quella regione e creando una certa stabilità nel loro regno, altrimenti vacillante. In cambio, Agnese avrebbe dichiarato legittimo il matrimonio con Beatrice e avrebbe riconsegnato i domini di Bonifacio. Intrappolata e confusa, la regina Agnese accettò l'offerta. Era piuttosto inesperta di politica e, data la crisi sempre più grave che minacciava il futuro del figlio, aveva poco tempo per chiedere consiglio. Voleva fare almeno un tentativo per assicurare al suo erede la Lorena e la Sassonia nel caso che fosse seguito alla morte di suo padre, un sovrano ingiusto e impopolare che aveva governato con il terrore. La sua priorità doveva essere proteggere la Germania e i territori confinanti. L'Italia era l'ultima delle sue preoccupazioni in quel momento e Goffredo fu abbastanza avveduto da cogliere l'occasione al volo. Nel mutevole mondo della politica europea il tempismo era tutto. Nel 1057 Matilde e Beatrice partirono così dalla Germania e si trasferirono a Firenze per cominciare la loro vita con il duca Goffredo di Lorena. Matilde non si guardò mai indietro, mentre si lasciava la Germania alle spalle, decisa a non rimettere più piede in quella terra gelida e dimenticata da Dio, a meno che non fosse stato strettamente necessario all'adempimento del volere divino. La Toscana era ridotta in miseria. Quello che quattro generazioni della famiglia di Matilde avevano costruito con tanta fatica. Una terra prospera in cui la popolazione cresceva florida e le risorse naturali venivano sfruttate con cura e intelligenza, era stato completamente distrutto dal re tedesco in meno di 2 anni. Mentre attraversavano la Toscana, la giovane Matilde era disgustata e terrorizzata da quanto vedeva. Non c'erano più i vivaci villaggi e le fiorenti città, della sua prima infanzia, i luoghi che aveva visitato con il padre, dove egli era osannato come un principe. Al loro posto c'erano tuguri cadenti fra i quali gli abitanti si aggiravano nervosi e furtivi, in allerta al minimo calpestio di zoccoli sulle strade. I cavalli portavano ladri e conquistatori e non c'erano protezione o pietà a cui appellarsi. Fu in uno di quei villaggi, nei pressi della cittadella di Canossa, che la famiglia si fermò una sera per avere cibo e ospitalità. Matilde era sfinita dal viaggio attraverso le Alpi e più ancora sconvolta dallo spettacolo di desolazione e violenza che aveva visto lungo il tragitto. All'inizio non capì che cosa stesse accadendo quando entrarono nel villaggio, avendo conosciuto la prigionia e gli abusi. La sua prima reazione fu la paura che la folla radunata fosse un pericolo per lei, ma quando il corteo si avvicinò riuscì a distinguere quello che gridava la gente. Matilde! Matilde! Frotte di bambini festosi le corsero incontro e posarono fiori ai suoi piedi. I loro genitori li seguirono, acclamando il ritorno della loro contessa. Quella sera, nel tepore sbiadito di quella che un tempo era stata la sala per i banchetti di un signore locale, Matilde fu intrattenuta dagli abitanti del villaggio. Molti raccontarono delle perdite e delle tragedie che avevano vissuto per colpa di uno spietato e avido sovrano straniero. A 11 anni, Matilde ascoltò ogni cosa insieme alla madre e al patrigno. I resoconti delle ingiustizie subite dal suo popolo la colpirono profondamente. Non si lasciò sfuggire neanche una parola e memorizzò tutto. Giurò fra sé e sé che quando si fossero assestati nella loro nuova vita avrebbe trovato il modo di risarcire ognuna di quelle persone per le perdite subite. Gli abitanti del villaggio erano venuti a implorare il duca Goffredo, che adesso era il loro signore feudale, di restaurare i loro possedimenti e di aiutarli a ricostruire le loro case, fornendo loro anche truppe di difesa. Ma soprattutto erano venuti a vedere la leggendaria contessina, perché era toscana di nascita e figlia di una grande profezia. Era Matilde, l'unico barlume di speranza per il popolo dell'Italia settentrionale. Era Matilde che avrebbe riportato la Toscana al suo antico splendore, alla sua gloriosa condizione di pace e di prosperità. La gente ne era certa, e anche Matilde. Dal libro dell'amore, secondo la trascrizione del libro rosso, esistono forme di unione più alte di quelle che possono essere espresse. Quelli che le sperimentano non si separano più e si diventano uno solo al di là delle distinzioni fisiche. Quelli che si riconoscono a vicenda scoprono la gioia impareggiabile di vivere insieme in questa completezza. Il tempo ritorna. Quando le famiglie dello spirito si uniscono sulla terra, c'è grande letizia nella casa di El Ashera. Quelli che si riconoscono in questa vita vivono in una completezza che è sconosciuta a coloro che non hanno questa fortuna. L'unica gioia più grande dell'unione è la riunione. Deve avvenire un risveglio, bisogna svegliarsi in questo corpo, poiché tutto esiste in esso e solo attraverso questo risveglio si avranno occhi per vedere e orecchie per intendere. Solo attraverso questo risveglio riconoscerai e ricorderai quelli con cui è destino che ti riunisca. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Firenze 1057. Il duca Goffredo aveva scelto Firenze come loro nuova dimora perché la preferiva di gran lunga a Mantova, dove sarebbe stato difficile competere con il ricordo di Bonifacio. Da Firenze poteva operare in un ambiente più cosmopolita e politicizzato. Mantova, Modena e Canossa erano più provinciali. Fece ampliare e rinnovare un antico palazzo nel centro della città, vicino al magnifico battistero ottagonale che dominava Firenze. Matilde si adattò alla vita fiorentina, preceduta da un commovente ricongiungimento con l'adorata Isabella. Beatrice, che adesso lavorava a sodo per mandare avanti la casa toscana a nome di sua figlia, era fin troppo occupata per crogiolarsi nelle attività materne, malgrado il periodo trascorso in Germania avesse avvicinato più che mai mamma e figlia, Matilde avrebbe avuto sempre bisogno delle cure di Isa. Isabella era preoccupata per la durezza che Matilde aveva sviluppato durante la prigionia in Germania. Aveva perduto una parte della sua innocenza e avrebbe faticato a fidarsi delle persone nuove che fossero entrate nella sua vita. Ed era diventata irrequieta e combattiva nella sua nuova passione per la giustizia. Isabella e il maestro si resero conto che avrebbero dovuto lavorare sodo per farle capire che il desiderio di giustizia non doveva assumere il colore della vendetta, perché mentre uno era il frutto della luce, l'altra era il frutto delle tenebre. Come guida, Matilde doveva imparare ad attingere dalla fonte dell'amore tutte le volte che era possibile. L'amore vince tutto. Cosa più importante per gli intenti dell'ordine, Matilde non aveva più ricevuto una vera istruzione spirituale da quasi 2 anni, in un periodo che era cruciale per lo sviluppo di una bambina. Durante la prigionia, la sua unica formazione religiosa era stata la rigorosa interpretazione ortodossa delle scritture, che era il pane quotidiano della famiglia reale tedesca. Lavorare per rimediare a quel danno sarebbe stata una sfida. Di conseguenza, la cerchia più intima dell'Ordine del Santo Sepolcro di Lucca era giunta alla conclusione che dovevano essere prese delle misure di emergenza. Il maestro si sarebbe trasferito a Firenze, dove l'ordine aveva una base, un monastero sulle rive dell'Arno che era dedicato allo Spirito Santo e si chiamava Santa Trinità. Una comunità di monaci, riservati e alquanto misteriosi, legati all'ordine, aveva costruito un monastero lì nel X secolo, sotto il patronato di Sigfrido da Lucca, il mitico bisnonno di Matilde. I monaci non erano solo simpatizzanti dell'ordine, ma alcuni di loro discendevano dalle più potenti famiglie della dinastia ed erano membri ufficiali. Lì, nel monastero di Santa Trinità, Isabella e il maestro avrebbero ripreso seriamente l'istruzione di Matilde, avrebbero reclamato la loro bambina, la loro preziosa attesa e l'avrebbero riportata all'ovile della Via dell'Amore. Avrebbero fatto in modo che avesse tutte le opportunità di adempiere il proprio destino. Le avrebbero insegnato che Dio le aveva inflitto la prova della prigionia per un motivo ben preciso, perché conoscesse e comprendesse la sofferenza derivante da un trattamento così ingiusto. Quello che aveva imparato avrebbe influenzato le decisioni che avrebbe preso come guida, le sarebbe stato utile per ricordare che ognuno dei suoi vassalli era un essere umano e che il libro dell'amore insegnava che tutte le anime erano uguali, che nessun uomo o nessuna donna aveva più valore di un altro. Alcuni potevano avere destini che sembravano più elevati, ma questo nell'ottica umana. Agli occhi divini tutte le anime avevano uguale valore. Anche se la lezione era stata dura per una bambina così piccola, il maestro avrebbe sottolineato che era chiaramente parte del disegno che il divino aveva per Matilde. L'avrebbe trasformata nella guida più grande e più benevola di tutte. C'era inoltre la preoccupazione che l'esperienza di Matilde con il giovane Enrico avesse pregiudicato i suoi rapporti con gli altri bambini della sua età, in particolare con i maschi. Il futuro sarebbe dipeso dalle sue abilità diplomatiche con gli uomini, pertanto questo era un problema che andava affrontato. Il maestro decise di cominciare a istruire Matilde insieme ad altri bambini a partire dall'orfanello che era stato mandato dalla Calabria per via della sua acutezza di ingegno e della sua predisposizione al comando. Aveva all'incirca la stessa età di Matilde e il maestro credeva che il ragazzo sarebbe stato una valida compagnia per la contessina. Si chiamava Patrizio e a 9 anni aveva già dato prova di essere intellettualmente e spiritualmente dotato. Patrizio era un bambino adorabile, con la fortuna di avere un carattere solare, oltre a una volontà ferrea. Sarebbe riuscito a stare al passo con Matilde e persino a sfidarla. Erano abbastanza simili da poter andare d'accordo, ma anche da potersi spronare a vicenda. Era una soluzione perfetta che si sarebbe rivelata del tutto salutare per Matilde.